nulla mi manca. Il Salmo 23. Guardavo dalla finestra un merlo tutto teso e indaffalato a smuovere con il becco giallo delle foglie. Secche per trovarvi sotto del cibo da mangiare, e la mia mente è andata a ciò che disse Gesù in merito. Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? MT 6.2526. Con questo ordine di non essere solleciti con l'ansietà nella vita, e la promessa di un Dio che provvede a ciò che ha bisogno, Gesù ha offerto una vita che non ha eguali, non mancare di nulla. Se si vuole esprimere con una sola parola lo stato più deplorevole della creatura umana, e non solo il suo ma di tutto il creato, questa è proprio la parola indigenza, cioè necessità. Perciò, avendo la possibilità di non mancare di nulla, si è non solo più ricchi dei ricchi, meno perché pure al ricco mancano tante cose, meno ma si ha quell'appagamento che tutti cerchiamo e che nel buddismo si chiama nirvana, mentre per molti cristiani lo si pensa di trovare solo in cielo. Ma Gesù ha promesso che chi cerca prima il regno di Dio sperimenterà anche sulla terra di non mancare di nulla, perciò questa promessa non è per gli increduli o per chiunque ha posto la fede salvifica in Cristo, ma è solo per coloro che sono impegnati nel regno di Dio. E perché queste riflessioni non siano puramente dissertazioni filosofiche, è opportuno ascoltare chi ha consacrato la sua vita a compiere la volontà di Dio. Uno di questi è il re del popolo di Israele, Davide, il padre del re Salomone. Tra i tanti salmi meno, cioè preghiere meno, che scrisse, il Salmo 23 è forse il più noto, il più letto, perché vi si trovano delle riflessioni espresse da un uomo appagato che, calate e credute in una generazione di completa insoddisfazione come la nostra, possono trasformare positivamente e in modo esplosivo qualsiasi vita. E fuori di dubbio che dei primi tre re che hanno regnato sopra il popolo di Israele, Saul, Davide e Salomone, la vita di Davide è stata la più tormentata e piena di grandi angosce, eppure pochi o nessuno ha saputo esprimere un'esistenza così ricca e appagante dove nulla mancava. Vale la pena perciò di prendere in considerazione ogni parola di questo salmo per poter carpire tutta quell'abbondanza promessa da Dio a tutti coloro che lo mettono al primo posto e vivono per lui. Davide inizia il salmo dicendo: «L'Eterno è il mio pastore». In questa prima espressione il credente, impegnato nell'opera di Dio, confessa di essere una pecora, ma non gli manca un conduttore. In ogni lingua si usano delle espressioni simboliche per esprimere certe verità, come per esempio «e forte come un toro» o «e astuto come una volpe». Perciò nulla di strano se il re Davide è con lui. Ogni credente si riconosce una pecora, con una differenza però. Mentre il toro è forte e la volpe è veloce e astuta, la pecora non ha grandi qualità, perché prima di tutto non sa difendersi. Non ha il senso del pericolo, dove va una vanno tutte le altre, e non sa scegliersi neppure il gruppo. Nonostante riconosca i propri limiti, il credente però ha un conduttore, ossia il pastore. Infatti, le qualità delle pecore sono che ascoltano, seguono, ubbidiscono solo alla voce del pastore e fuggono dagli estranei. Ecco cosa è importante in questo mondo. Non è importante conoscere tutto o essere all'altezza di ogni situazione, ma avere uno da seguire, come non è importante conoscere a menadito una città, bensì avere una guida umana o la cartina geografica della città. Ma la cosa ancora più importante di avere un semplice conduttore è fare dell'Eterno la propria guida, seguire quel Dio che si è rivelato sul monte Sinai e che è morto in croce perché agli uomini non fossero più imputati o addebitati i loro peccati. Per chi ha posto fede in Gesù quale Salvatore, il conduttore è Cristo, il Figlio di Dio, perché ha realizzato che Lui lo protegge, ha dato la sua vita per le sue pecore e lo guida giorno per giorno, quando Gesù disse «Io sono il buon pastore», non stava identificandosi con Yahweh, cioè come alcuni pensano, ma stava sostenendo di essere lui stesso. Yahweh, cioè colui che si era rivelato ai patriarchi, e questo concorda con la scrittura quando afferma che vi è un solo pastore e un solo Signore. Perciò chi ha posto fede in Cristo e serve Dio non può avere altri conduttori, altri pastori, anche perché le parole di Gesù sono chiare e inequivocabili. Voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Né fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. MT 23.8.10. Dato per scontato che non si riferiva ai rapporti umani, Gesù ordina che nel campo spirituale nessuno possa essere maestro, padre, e tantomeno santo padre, e guida. Perciò chi accetta seriamente le parole di Cristo non manca di nulla. Per prima cosa quindi di un conduttore in ciò che riguarda la fede e la condotta. Dopo aver detto che l'Eterno è il mio pastore, Davide continua col dire «non mi manca nulla». In questa espressione, il credente confessa di trovare in Cristo il suo appagamento. Parlare di appagamento in Cristo potrebbe sembrare puro fanatismo religioso, o un voler sublimare certe idee per fuggire dalla realtà. Ma non mancare di nulla in Cristo è una realtà che realizzano e comprendono solo coloro che di Gesù hanno fatto il loro unico mezzo per scampare al giudizio e all'ira di Dio. Infatti, il vero ed unico problema dell'uomo con Dio è non cadere sotto la sua giustizia o la sua ira, ed è per questo che in tutte le religioni esistono riti o cerimonie per propiziarsi il favore della divinità. Ma se si potesse trovare misericordia o perdono presso Dio con delle opere, se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Gal 2.21. Infatti, se con la sua morte Gesù Cristo ha riconciliato il mondo a Dio 2 Co 5.19, se tutti i peccati degli uomini del passato, del presente e del futuro sono stati cancellati e tolti, che senso ha insistere a cercare il favore o il perdono di Dio? Se Cristo è morto per tutti i religiosi perché abbandonino ogni pretesa di riconciliarsi con Dio, allora ogni forma di religione umana non ha ragione di esistere. Diversamente, la morte di Cristo sarebbe il più grosso errore nell'ambito religioso. A chi crede che Gesù Cristo ha compiuto un sacrificio sufficiente per ricevere il perdono dei peccati una volta per sempre, nulla manca per quanto riguarda la sua relazione con Dio e nulla gli manca per quello che riguarda la vita terrena nella quale è pienamente appagato. Chi ha pagato è un essere soddisfatto, contento? A rifletterci bene, il termine appagato non dovrebbe ritenersi appropriato in riferimento ad una persona. Perché, per quanto le cose vadano bene, sappiamo che cazzi, è sempre qualcosa nella vita che impedisca di sentirsi pienamente soddisfatti. Dando per scontato che ognuno abbia problemi di salute, ciò che rende insoddisfatti è anche il fatto che le cose non vanno sempre secondo le nostre aspettative, che gli altri facciano cose che non ci sono gradite, che le proprie ambizioni non possano essere sempre realizzate, che non si possieda ciò che il cuore brama, eppure chi ha Cristo Gesù, come il pastore della sua vita, trova il giusto nutrimento morale quotidiano, escogita nobili disegni e si prefigge cose nobili, Isaia 32.8, la verità che in lui sgorga come fiumi d'acqua, e realizza quella vita appagante che non è altro che la vita normale del cristiano. Non manca di nulla chi di nulla ha bisogno se non di Cristo. Chi ha Cristo Gesù come unico conduttore non manca di nulla, tanto meno del riposo. Infatti il cristiano può dire con il re Davide, «Egli mi fa giacere in pascoli di erba». Sembra che la parola «giacere», cioè stare sdraiato nel senso di riposarsi, sia scomparsa in una società dove tutto è frenetico e deve realizzarsi subito. E così ancora una volta il messaggio del Vangelo non solo è opportuno e centrato, ma diventa la risposta al logorio dell'uomo del XXI secolo. Per prima cosa è indispensabile il riposo del proprio stato d'animo, perché ogni altra cosa è condizionata da questo. Ho presente una ragazza che vive in una famiglia agiata, dove i genitori possono e non gli fanno mancare nulla. È intelligente e riesce negli studi, è carina e corteggiata, eppure è continuamente agitata da varie concupiscenze, cioè quelle bramosie che non le sono lecite, e il suo viso tradisce questa sua insofferenza. Quando le ho fatto presente che non ha nessuna ragione per lamentarsi, mi ha confessato la sua profonda agitazione nel non essere in pace con se stessa, ma soprattutto con Dio. La pace con Dio è il primo presupposto per avere quel riposo mediante il quale nulla manca. E l'assurdo è che nella religione cattolica romana che si professa cristiana e in un certo ambiente protestante, questo riposo è totalmente sconosciuto. Mettendo da parte per un attimo quei milioni di persone che si professano cristiane senza neppure avere lontanamente l'idea di cosa significhi possedere il riposo di Dio, è vero che vi sono fedeli che, sublimandosi in riti religiosi, trovano un certo apparente riposo, ma nel loro intimo sono poi tormentati dell'incertezza della loro condizione eterna e vivono del continuo sospesi sperando una eventuale e inspiegabile grazia di Dio. Non vi è riposo in nulla in questa vita senza aver risolto una volta per sempre il problema dei propri peccati o mancanze davanti a Dio, e un rito religioso quale il battesimo o una consueta confessione auricolare fatta ad un sacerdote non danno il vero riposo eterno che produce solo un atto di fede incondizionato nel sacrificio di Cristo. Anche un figlio di Dio può vivere fuori del riposo di Cristo. Se non lascia che il Dio Trino governi la sua vita, se non vede la mano di Dio e la sua volontà in tutto ciò che succede, e non potrà riposarsi in pascoli d'erba, cioè attorniato da abbondanti benedizioni. Chi vede intorno a sé solo deserto e penuria, non può per nulla riposare, perché il riposo di Dio esiste solo in un luogo dove l'erba abbonda. Solo allora si realizza che nulla manca. Chi può dire con Davide che Cristo è il suo pastore, il quale lo fa riposare in mezzo a molta abbondanza, può anche testimoniare che Cristo è colui che lo conduce. Infatti così si è espresso Davide. L'Eterno è il mio pastore, non mi manca nulla. Egli mi fa giacere in pascoli di erba. Mi conduce verso acque di quiete. Tutti abbiamo disperatamente bisogno di essere guidati perché si entra in questo mondo incapaci di affrontare un'esistenza a noi totalmente ignota. Ma il campo che risente del bisogno più impellente di una guida è quello spirituale, perché mentre nella vita quotidiana possiamo acquistare per esperienza delle certezze, nel campo spirituale siamo proprio completamente nel buio. Nessuno di noi può parlare per esperienza di cosa ci sia dopo la morte, come nessuno di noi è in grado di comprendere gli innumerevoli grovigli della vita, e tantomeno cosa ci aspetta domani. Quando l'11 settembre del 2001 dei terroristi eseguirono i vari attentati in America, qualcuno fece presente che nessun indovino o veggente aveva previsto tale sciagura, mettendo ancora una volta in ridicolo la pretesa capacità dell'uomo di conoscere il futuro imminente. Noi abbiamo bisogno di un conduttore, di qualcuno che ci dica cosa fare rettamente ora e un domani. E chi ha posto fede in Cristo Gesù quale unico vero conoscitore del passato, del presente e del futuro, non manca di nulla, neppure di un leader da seguire. Purtroppo Cristo non è l'unico conduttore per tutti. Per questo ancora una volta Gesù rivolse a dei capi religiosi, quali i sacerdoti e i vescovi di oggi, delle parole molto dure che non saranno più cancellate. Così leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite: noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane». GV 9.3941. L'errore di questi capi religiosi, meno che tra l'altro stavano osservando la giusta religione, meno era quello di essere convinti di comprendere e interpretare correttamente la volontà di Dio. E questo impediva loro di mettere in discussione il proprio modo di agire e di intendere. I farisei avevano tante scuole per interpretare la legge, erano a favore di un rabbino anziché di un altro, Come fanno oggi il cattolicesimo romano e il protestantesimo liberale, ma Cristo non era colui che li conduceva. Cristo Gesù è il conduttore per chi lo accetta come tale, e solo così il credente realizza di non mancare proprio di nulla. Chi ha posto fede in Cristo come il suo unico conduttore non manca neppure di pace, di serenità, perché può dire con il re Davide: «Mi conduce verso acque di quiete». In questo caso, l'acqua simboleggia lo scorrere della vita e, come tutti sappiamo, i letti dei fiumi non sono tutti uguali. Le acque in pianura scorrono molto tranquille, mentre quelle che scendono dalla montagna spesso compiono dei salti di vari metri, con un fragore assordante. Queste immagini riflettono la vita di tante persone. Alcune hanno una vita senza tanti scossoni, altri hanno un'esistenza piena di affanni, dolori e di contrarietà. Sono coloro che seguono facili entusiasmi ed emotività spirituali fini a se stesse. Oggi vi è la corsa alle emozioni nel campo della fede senza rendersi conto che questo è proprio ciò su cui giocherà l'Anticristo. 2 Tera II:9. Più passa il tempo, più mi rendo conto che la vita cristiana normale è normale. Essa scorre come l'acqua, lenta e silenziosa. Se lo scorrere di un fiume non è silenzioso, è perché vi sono forti pendii o contrasti nel terreno. Tutti conosciamo il rumore che produce una cascata. Esso è il risultato di un contrasto. E più forte è il contrasto, più forte sarà il frastuono. La mia modesta esperienza di cristiano mi ha portato più volte a constatare che gran parte di coloro che cercano forti emozioni spirituali hanno toccato bassezze morali. Più in basso si è caduti, più si cercano altezze trascendentali, perché la legge della compensazione è valida anche nel campo spirituale. Gesù stesso la riconobbe quando disse: «Colui al quale poco è perdonato, poco ama». Luca 7,47. In un certo senso non vi è nulla di sbagliato per queste persone attendere a forti emozioni spirituali, ma quando queste sono lo scopo della vita, sono controproducenti. Le emozioni sono un dono di Dio che il diavolo può trasformare in trappole fatali. E per questo chi ha posto e pone una giusta fede nella persona di Gesù non manca di nulla. Cioè non ha necessità di sperimentare livelli particolari di emozioni e di comunione con Dio. Se Dio concede un particolare rapporto con Lui in un particolare momento della vita, ben venga. Ma desiderare di rimanere sulla montagna con Gesù come fece Pietro è un desiderio malsano, anche se apparentemente potrebbe sembrare lecito e spirituale. La vita di un cristiano condotta dallo Spirito Santo scorre nella normalità al punto che potrebbe anche non essere notata, come non è stata notata quella di Gesù prima che iniziasse a compiere miracoli. Non avere necessità di cose eclatanti è un dono che pochi realizzano, anche perché pochi sono coloro che possono dire: «Gesù è il mio pastore, egli mi conduce verso acque di quiete». Quando un figlio di Dio ha per conduttore o pastore Gesù Cristo, quando in lui è appagato, quando in Cristo trova la giusta direzione e la pace, non manca di nulla, neppure una vita di rinnovamento, una vita sempre in continua innovazione. E questo non è poco, perché occorre essere onesti. Noi ci annoiamo a morte quando le cose sono statiche. Noi abbiamo un disperato bisogno di pace, ma non di immobilità. Abbiamo bisogno di stabilità, ma non di staticità. Niente è più conforme al creato, alla nostra esistenza, alla nostra psiche, che un continuo mutamento sia di clima, sia di circostanze e di apprendimento. Ho visto un cartone animato con questo significato morale. I tre paperi, qui, quo, qua, trascorrono un Natale magnifico. Vanno a casa da zio Paperone. Ricevono magnifici regali che da sempre sognavano, mangiano i dolci più prelibati, arriva una loro zia che li abbraccia e li bacia abbondantemente. Tutto è sapore di gioia e di felicità, a tal punto che, alla sera prima di addormentarsi, pregano di poter realizzare tutti i giorni la stessa esperienza di quel Natale. Così, il giorno dopo, in casa di zio Paperone, arriva la zia che li abbraccia, ricevono gli stessi regali. mangiano abbondantemente gli stessi cibi prelibati. Poi, il giorno seguente, in casa di zio. Paperone realizzano di nuovo che la zia li abbraccia, ricevono gli stessi regali, mangiano abbondantemente gli stessi cibi prelibati. Così, dopo una settimana, che realizzano quello che sarebbe il più bel giorno della loro vita, qui, quo, qua, prima di addormentarsi, pregano perché la vita torni normale, con i suoi giorni belli e brutti. Anche la più grande felicità e il più profondo piacere diventano stomachevoli se non vi sono i contrasti del bisogno e del diverso. Ecco perché Gesù, nel parlare della vita cristiana, ha presentato un'esistenza piena di sorprese, piena di gioie e di dolori, piena di riposo e di grande attività. Nel cristianesimo niente è statico, nulla è dato per scontato, perché le vie di Dio sono sempre imprevedibili, anche perché il Dio delle Scritture è imprevedibile. Dopo 40, 50, 60 anni di vita cristiana, tutti i figli di Dio che sono stati condotti dallo Spirito Santo possono testimoniare come ogni giorno abbiano imparato a conoscere sempre più Cristo Gesù, come abbiano sperimentato un amore rinnovato di Dio e come abbiano realizzato che la parola di Dio è vivente ed efficace, sempre nuova, sempre attuale, sempre innovativa, capace di ristorare. Chi ha posto la giusta fede in Cristo non solo trova riposo, sapienza, abbondanza e un leader, ma anche una vita in continua trasformazione perché non manca di nulla. Il credente confessa con Davide che l'Eterno è il suo conduttore, che in lui trova riposo e si sente condotto in pace in una vita piena e abbondante, ma testimonia anche che è il suo consigliere in quanto è la sua guida. Per alcuni Gesù può essere anche ritenuto il conduttore, ma per pochi Gesù è veramente il consigliere personale, perché occorre ritenersi incapaci di valutare e di risolvere le situazioni nel modo giusto, e questo atteggiamento è molto raro anche tra i figli di Dio. Quando Gesù parlò delle beatitudini dell'uomo, la prima di esse era beati i poveri in spirito, e qualsiasi interpretazione si dia a questa beatitudine, una cosa certa meno in armonia con il pensiero di Dio, ossia, la povertà nello spirito si riferisce alla presa di coscienza di essere ignoranti e perciò bisognosi di avere come consigliere Cristo. Senza questo presupposto, nessuno, ma proprio nessuno, può ricevere la luce necessaria per camminare in modo retto nel cospetto di Dio. Secondo la Scrittura, l'uomo diventa stolto quando si ritiene savio, e la sua maggior condanna è ritenere i pensieri di Dio, espressi nella sua parola, discutibili e provvisori. Ma chi ha Cristo come suo consigliere accetta le sue parole. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. SL 32.89. Com'è riposante sapere che in ogni situazione si ha la certezza di essere guidati e illuminati da Cristo? E com'è distensivo credere che si possa possedere la giusta sapienza ogni giorno? Non è un'opinione di un fanatico religioso, ma la realtà di chi pone totalmente fiducia nella sovranità di Dio. Perché Gesù stesso disse di avere vinto il mondo, GV 16.33, anche se poco dopo fu crocifisso e morì in croce. Essere consigliati da Cristo significa vedere le situazioni della vita come le vede Dio, significa vedere la vittoria dove apparentemente vi è la sconfitta, significa rallegrarsi quando non vi è nessuna ragione umana per farlo. Chi confessa con Davide che l'Eterno è il suo conduttore, che in lui trova riposo e lo conduce in pace in una vita piena e appagante, e testimonia che Cristo è il suo consigliere e la sua sapienza, non manca di nulla, perché nulla, ma proprio nulla, può togliergli il pane, può togliergli i premi che Dio ha preparato per lui. Chi serve Gesù Cristo e lo ritiene suo conduttore, chi in lui trova riposo e si sente condotto in pace, in una vita piena e appagante, chi testimonia che è lui il suo consigliere realizza anche che Gesù lo conduce su sentieri di... Purtroppo, a causa di un religiosismo sbagliato, quando si parla di santità, gli uomini arricciano il naso e considerano la vita una pena da scontare anziché un dono da godere. Santità non è sinonimo di sofferenza, di lunghi digiuni sofferti, di interminabili preghiere noiose, di un viso che allontana da sé ogni espressione di gioia, ma significa solamente una vita condotta secondo le regole di Dio, e le regole di Dio sono buone, accettevoli e praticabili. Chi di noi darebbe a suo figlio delle regole di vita per farlo soffrire? Chi di noi ordinerebbe a suo figlio cose che non potrebbe mettere in pratica o che fossero a suo danno? Ora, se noi che siamo malvagi diamo buoni ordini e regole ai nostri figli, quanto più colui che ci ha creati, Cristo Gesù, ha dato delle leggi o regole che sono per il nostro bene. I suoi divieti non sono restrizioni della libertà, ma una salvaguardia di questa. Infatti, il divieto di commettere adulterio definisce l'uso legittimo o errato del sesso, per indirizzarlo alla giusta e totale espressione, in un contesto d'amore e sicurezza. Il divieto di rubare rende possibile la vita comunitaria. Il divieto della falsa testimonianza pone le relazioni umane in un contesto di libertà e fiducia. L'ordine di non concupire prepara la strada alla vera soddisfazione. L'ordine di onorare i genitori protegge l'integrità della famiglia e la comunione è la comunione tra le generazioni. Volere una società dove vi sia libertà da ogni restrizione morale, intellettuale e sociale è cercare un'utopia. Un'orchestra non ha mai prodotto un suono degno di essere ascoltato se ciascuno dei suoi membri suona disordinatamente quello che gli piace. Similmente, una squadra non può fare un gioco degno di essere guardato se ogni giocatore fa il proprio gioco. La libertà totale non esiste. L'uomo è veramente libero solo quando è sottomesso a Dio e obbedisce al suo Creatore, Gesù, il quale così si è espresso: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8 e 32. Ciò che limita o rende schiavo e infelice l'uomo è il peccato. Giovanni 8 e 34. Nell'osservanza della verità, al contrario, egli trova la vera libertà. Ecco perché chi segue Cristo realizza che nulla gli manca. Perché nei sentieri della santità trova la sua massima espressione di libertà. Essere santi e liberi significa essere in armonia con la vita e le sue leggi, significa godere appieno un equilibrio appagante. Quando l'Eterno Dio conduce un'anima con una vita appagata, gli dà riposo, e la conduce con un continuo rinnovamento nella pace, gli dà pure la certezza che tutto ciò è per la gloria di Dio. Così infatti si è espresso il re Davide: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Per una natura orgogliosa qual è la nostra, è molto importante tenere sempre presente che l'amore di Dio nei nostri confronti non è dovuto ad una nostra presunta amabilità, ma all'intrinseca natura amorevole di Dio. Infatti, quando Dio agisce, agisce per amor del suo nome, espressione, questa riferentesi, alla sua volontà. Proprio per questo, quando Gesù presentò la preghiera modello nei Vangeli, ordinò per prima cosa ai suoi discepoli di dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. E, troplichisse lì caro senta la volontà di Dio stabile nei secoli dei secoli, che può permettere al credente di avere delle certezze, perché i suoi piani sussistono in eterno. Chi ha posto fede in Cristo quale unico conduttore da adorare, servire e pregare, ha la certezza che tutti i suoi peccati siano perdonati e di conseguenza possiede sulla terra anche la certezza di andare alla presenza di Dio. Nessuna religione che si definisce cristiana come quella cattolica romana può dare la certezza della salvezza dell'anima, perché secondo il romanesimo meno il credente può commettere un peccato mortale, cioè abiurare la fede cattolica romana, mentre una fede operante in Cristo produce la convinzione dello Spirito di appartenere per sempre a Cristo. Se così non fosse l'Evangelista, Giovanni non avrebbe scritto le seguenti parole: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 1 Giovanni 5:13. Questa promessa mi porta spesso a pensare alla parabola di tre uomini che vanno alla guerra. Il primo sa che morirà, il secondo è incerto del suo ritorno, il terzo è certo di tornare sano e salvo a casa. È inevitabile che il primo uomo combatta disperato, il secondo angosciato, il terzo tutto allegro. E questo perché la nostra opinione del futuro condiziona il presente di noi esseri umani. Il cristiano è uno che conosce il suo futuro nell'aldilà e ne è certo. Per questa ragione egli vive in un modo impossibile agli altri, cioè vive senza indigenza, nulla gli manca. Chi può offrire di più di una reale fede in Cristo? Chi non è certo del futuro non solo manca di qualcosa, ma di tutto è mancante. La parola di Dio non è stata scritta per degli ingenui o per chi desidera costruire castelli in aria, ma tratta la realtà della vita in ogni settore, come quello della morte. Chi ha posto fede in Cristo e lo serve, può dire con Davide quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Alcuni pensano che una fede genuina in Cristo sia un'assicurazione contro le più grandi disgrazie della vita, ma se anche Cristo conduce un'anima con una vita appagata, gli dà riposo e la conduce con buoni consigli nella pace, gli dà delle certezze, non lo esime però dalla comune esperienza della morte o di realizzare di essere vicino alla morte, cioè non gli mancano le giuste difficoltà. Che non manchino le difficoltà, questa è l'esperienza quotidiana di tutti, ma non a tutti è dato di attraversare le giuste difficoltà, perché per attraversarle occorre avere Cristo come il buon pastore. Ci sono forse difficoltà giuste e ingiuste? Sì, quali sono queste difficoltà giuste e ingiuste? Le difficoltà ingiuste sono quelle che si creano con una vita disordinata, per cui se inizio a drogarmi o a bere in modo smoderato alcol, è evidente che mi trovo all'ospedale causa la mia intemperanza, o se inganno il prossimo negli affari, è evidente che sarò perseguitato dalla giustizia. Soffrire fisicamente perché si è intemperanti, o soffrire moralmente perché si è sleali, sono sofferenze giuste, ma se si è perseguitati perché si è giusti, non solo è auspicabile, ma anche ragione di gioia. Gesù disse in merito: «Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi». Mt. 5.1.1.12. Se ci fu un uomo che non commise mai nessuna ingiustizia fu proprio Gesù, e lo dimostra il fatto che perfino Pilato e tutti gli altri accusatori che lo condannarono a morte non trovarono in lui nessuna colpa. Eppure, se ci fu un uomo che soffrì causa l'opposizione degli uomini fu proprio lui. A chi pone fede in Cristo non manca proprio nulla, soprattutto le difficoltà quando con coraggio e fermezza testimonia della verità, ma egli sa che da Dio ha ricevuto la grazia e non la disgrazia di soffrire per Cristo, per essere in qualche modo partecipe delle sue sofferenze. Se il grande unico pastore e conduttore è stato messo a morte, chi segue le sue orme e lo ama lo segue con gioia, proprio perché non gli manca proprio nulla. Non mancare di nulla e avere paura è come andare in aereo in prima classe con il terrore di precipitare. Non si gode per nulla il viaggio e si arriva stressati. Cosa servirebbe al credente avere tutto ed essere del continuo timoroso del futuro? Ma chi ha posto fede in Cristo, con il re Davide, può dire: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temo il male». Così, il cristiano, oltre ad avere come pastore o conduttore Cristo, oltre ad avere una vita appagata e riposo, la pace, la saggezza, la certezza e giuste difficoltà, nulla gli manca dato che ha pure il coraggio, perché non teme di nulla. Tutti sono in grado di sostenere di avere del coraggio, ma una cosa è affermarlo, altra è dimostrarlo, e gli apostoli come i cristiani di ogni epoca lo hanno sempre dimostrato. Per la loro fede in Cristo, gli apostoli sono stati perseguitati e alla fine martirizzati, come i cristiani che sono andati serenamente e coraggiosamente in bocca ai leoni. Oggi, leoni veri e propri che divorano i cristiani non ce ne sono in tanti luoghi del mondo, ma per chi desidera verificarlo, in tutte le parti del mondo i cristiani vengono barbaramente perseguitati e uccisi. E questo solo perché si dichiarano cristiani e professano la loro fede in Cristo. Di recente in una conferenza ho sentito un musulmano testimoniare che nei paesi arabi molti musulmani professano Cristo quale unico Dio e unico Signore, e questo a costo della loro vita e del benessere della famiglia. E se questo non è coraggio, cos'è? L'Apostolo Paolo, che di sofferenza causa l'Evangelo di Cristo ne sapeva qualcosa, scrisse a suo figlio spirituale: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro né di me, suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo sostenuto dalla potenza di Dio». 2 Timoteo 1:6-8. Proprio perché il cristiano sa di possedere uno spirito di coraggio e gli guarda serenamente in faccia alla morte, sapendo che Cristo Gesù ha vinto anche la morte e soffre ogni giorno causa Cristo. Infatti non ha meno coraggio colui che rifiuta di rivolgere preghiere ai morti, che dichiara paganesimo ogni culto che non è rivolto a Dio tramite Cristo, che rigetta la pretesa autorità del romanesimo. Chi ha posto fede in Cristo come l'unico Papa, l'unica guida, l'unica autorità non sostituibile, nulla gli manca, neppure il coraggio di testimoniare delle opere malvagie del mondo e delle religioni. GV 7.7. Poiché l'appagamento del cristiano non è limitato, egli può dire con il re Davide non solo che Cristo è il suo pastore, cioè il suo conduttore, che possiede una vita appagante in un continuo riposo, che ha una direzione nel cammino della sua vita, che possiede la pace e un continuo rinnovamento, che si avvale del consiglio di Cristo, che realizza le giuste difficoltà, che possiede la certezza e il coraggio, ma soprattutto che ha costantemente la presenza di Cristo e per questo può affermare con gioia: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun ma». La differenza tra la vita del religioso e quella del cristiano è la stessa che passa da chi abita in casa del re e lo serve, da chi non vi abita, ma possiede un suo ritratto. Chi abita nella casa del re e lo serve lo incontra tutti i giorni e parla con lui direttamente, vede le espressioni del suo volto, conosce i suoi gusti e i suoi umori, mentre chi ha solo un ritratto parla davanti ad un'immagine, con la quale non ha possibilità di un colloquio, della quale non conosce il carattere e neppure gli stati d'animo. La religione presenta un Cristo piatto, piatto come sono le icone, un Cristo con il quale non vi è colloquio e necessita di un intermediario umano per andare alla presenza di un quadro che rimane inerte e muto, mentre una relazione con la persona di Cristo si ha quando si risponde all'invito dello Spirito Santo di porre una fede salvifica nell'opera compiuta sulla croce. Solo allora il credente può dire: «Quando anche mi trovassi in pericolo di morte, non temerei nessun male, perché tu sei con me». Gesù disse ai suoi discepoli: «Ma vo lasciraca». Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Il cristiano ha una relazione personale con Cristo. Senza intermediari parla con lui, lo invoca con parole proprie scaturite dal suo cuore e non dettate da un rituale, alle quali Cristo risponde direttamente mediante la sua parola vivente ed efficace. La parola di Cristo scritta non è un dono dato da Dio ad alcuni uomini quali sono i soli a comprenderla rettamente, come pretende il magistero vivente del cattolicesimo romano, ma è la volontà della parola incarnata espressa in lettere per tutti, capita da chi è nato di nuovo e dai piccoli fanciulli. In questo modo, quando si relaziona con la parola di Dio scritta, il credente si rapporta direttamente con Cristo senza l'aiuto del magistero o di un sacerdote, e osservandola realizza che Cristo è al suo fianco. Non è vero, come alcuni affermano, che Cristo accompagna tutti, ma solo chi mette in pratica ciò che Gesù ha detto. Perciò solo chi osserva la parola di Dio può dire: «Nulla mi manca». Chi afferma che nulla gli manca o è un pazzo o ha preso sul serio le parole di Cristo. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. GB 7.38. Avere questa abbondanza è possibile solo se Cristo è il proprio pastore o conduttore, se si possiede una vita appagante in un continuo riposo, se si ha una direzione nel cammino di vita, se si possiede la pace e un continuo rinnovamento, se ci si avvale del consiglio di Cristo, se si realizzano le giuste difficoltà, se si possiede la certezza e il coraggio, se si ha costantemente la presenza di Cristo, ma anche se si può dire con il re Davide: il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Ogni essere umano è come una pecora, ha bisogno di essere consolato. Quando si pensa alla consolazione, si ha in mente chi dice parole buone e incoraggianti, ma il re Davide nel suo salmo vede l'oggetto della consolazione in un bastone, in un bastone e in un vincastro. Mentre il bastone viene usato per colpire le pecore quando vanno nella direzione sbagliata, il vincastro o la verga è una bacchetta di vinco usata per stimolare gli animali. Dunque, la correzione e l'incitamento di Dio sono due strumenti per consolare chi segue come una pecora Cristo Gesù. Ho conosciuto diversi giovani che, dopo aver fatto una professione di fede, si sono allontanati dalla retta via, ma in seguito a circostanze negative sono stati incitati da altri credenti a riprendere sul serio le parole di Cristo e ritornare sui loro passi con una grande consolazione. Non a caso la parola di Dio invita l'uomo a non rifiutare la correzione di Dio che si esprime mediante prove e sofferenze, non a caso incoraggia a sostenere la prova con costanza, perché allora e solo allora si realizza la consolazione che Dio ha preparato per chi lo ama. Infatti, senza fare una inutile retorica, ho fatto mie le parole del salmista: se l'Eterno non fosse venuto in mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Salmo 94.17-19. La chiave per vivere una vita nella quale nulla manca è sempre quella: avere Cristo Gesù quale pastore e in Lui trovare le giuste consolazioni che possono rincuorare un cuore afflitto. E poi dicono che il cristianesimo non serve nulla. Che alternativa valida e duratura hanno gli scettici o gli increduli per chi è depresso o sconsolato? Chi ha posto fede in Cristo non cerca nient'altro che Gesù, il Figlio di Dio, perché in Lui nulla manca. Se si realizza che Cristo è il proprio pastore o conduttore, se si possiede una vita appagante in un continuo riposo, se si ha una direzione nel cammino di vita, se si possiede la pace o un continuo rinnovamento, se ci si avvale del consiglio di Cristo, se si realizzano le giuste difficoltà, se si possiede la certezza e il coraggio, se si ha costantemente la presenza di Cristo, se si è consolati, e dopo tutto questo si ha pure una prospettiva felice, allora nulla, ma proprio nulla. Infatti, il credente può testimoniare con il re Davide: tu apparecchi davanti a me una mensa. Vivere coscienti di avere davanti a sé un banchetto è un dono goduto da pochi, sia increduli sia credenti. E lo dimostra il fatto che la quasi totalità delle persone si lamenta. Ci si lamenta del governo, ci si lamenta delle persone che conosciamo, ci si lamenta del tempo se è troppo caldo o troppo freddo, ci lamentiamo del nostro coniuge perché non è quello che vorremmo, ci lamentiamo della mancanza di salute. Eppure, nonostante la vita non sia come vorremmo, abbiamo tante e tante ragioni per godere ciò che Dio ha preparato. Infatti, la vita è un dono da godere, non una condanna da espiare. E purtroppo pochi lo hanno capito. Chi è cosciente che nulla gli manca vive pieno di riconoscenza e senza lamentarsi, perché è più facile vivere avendo da lamentarsi che cercare il modo di non doversi lamentare di nulla. Se vogliamo, tutti abbiamo delle ragioni per lamentarci, e non di meno ne aveva certamente Gesù, che pur essendo figlio di Dio è nato povero, mangiava così poco che sulla croce si potevano contare tutte le sue ossa, è stato continuamente disprezzato e odiato, non è stato capito dai suoi discepoli, eppure la sua vita è stata un continuo banchetto perché ha dispensato un'infinità di bene ai poveri, ai ciechi, agli zoppi, ai sordi, a tutti i bisognosi. Il cristiano, quando osserva gli altri attorno a lui, si rende conto della ricchezza che Cristo gli ha dato, al punto che non cerca ciò che cerca l'uomo comune, e può dire con il salmista: tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano ed il loro mosto abbondano. Isselle 4.7. Il grano e il mosto rappresentano la prosperità, ma poiché questa ha delle ali come l'aquila e può volare via da un momento all'altro, chi ha Cristo come pastore o conduttore sperimenta che l'autobanchetto non è il risultato di un suo sforzo o di una circostanza casuale, ma è l'abbondanza di Dio, messa a disposizione del credente, perché, come sta scritto, Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Un Terametro 6:17. Realizzare che Cristo dona una prospettiva felice è ancora poco per chi non manca di nulla, perché, oltre a tradurre in realtà che Cristo è il proprio pastore o conduttore, che possiede una vita appagante in un continuo riposo, che ha una direzione nel cammino di vita, che possiede la pace, e un continuo rinnovamento, che si avvale del consiglio di Cristo, che realizza le giuste difficoltà, che possiede la certezza e il coraggio, che ha costantemente la presenza di Cristo, che è consolato. Egli realizza anche che questa prospettiva è posta davanti ai propri nemici, e questo significa che chi serve Cristo. Infatti, il fedele in Cristo può dire: tu apparecchi davanti a me una mensa dinanzi ai miei oppressori. Un testimone è chiunque annuncia ciò che ha visto e udito. È colui che racconta una sua esperienza, e nessuno può essere più testimone di colui che di nulla manca di fronte ai suoi oppressori. Mi è toccato la testimonianza di quel cristiano che veniva picchiato a sangue solo perché credeva in Cristo quale suo padrone e salvatore, e il suo aguzzino, per aggiungere sofferenza al suo dolore, gli disse: vedi, tu dici che il tuo Dio è potente. Invece io sono più potente di lui perché io ti picchio. Io ti ho vinto. Hai sbagliato, disse il cristiano con tono fiero. Il vincitore sono io, perché mentre tu mi odi, io ti amo. I veri cristiani sono una testimonianza al mondo, anche se il mondo non riceve la loro testimonianza, perché questa testimonianza è adombrata dagli avvenimenti della vita. Abane testimoniò della sua fede con la sua morte, mentre Enoch lo fece nell'essere stato rapito in cielo. Altri testimoniarono mediante il martirio, mediante scherni, frustrazioni e povertà, proprio come fu per il loro maestro e signore, cioè Gesù Cristo. Fa più scalpore un miracolo vero o presunto che sia, piuttosto di una vita vissuta nell'ignoto al servizio di Cristo e del prossimo. Ma poiché nulla rimane nascosto, dato che verrà un giorno quando ogni opera buona e cattiva sarà manifestata, la testimonianza del cristiano ha una connotazione più eterna che terrena e temporanea. Così, mentre gli oppressori o i nemici del cristianesimo pensano di aver raggiunto il loro scopo malvagio nel sopprimere la fede eterna, il credente vede in queste apparenti sconfitte la sua vittoria, vittoria che costituisce il banchetto o la mensa che Cristo dona ai suoi fedeli. Come può un figlio di Dio lamentarsi quando nulla gli manca? Chi serve Cristo ha un futuro felice perché nulla gli manca, perché oltre a realizzare che Cristo è il proprio pastore o conduttore, oltre a possedere una vita appagante in un continuo riposo, oltre ad avere una direzione nel cammino di vita, oltre a possedere la pace e un continuo rinnovamento, oltre ad avvalersi del consiglio di Cristo, oltre a realizzare le giuste difficoltà, a possedere la certezza e il coraggio, ad avere costantemente la presenza di Cristo, oltre a realizzare la consolazione divina e di essere una testimonianza al mondo, nella sua abbondanza il cristiano testimonia con Davide la sua elezione dicendo: tu ungi il mio capo con olio. Una simile espressione dice poco ai giorni nostri. Ma avere il capo unto con olio, tra il popolo ebraico, era sinonimo di essere stati eletti da Dio per un compito e di conseguenza di essere benedetti. In un certo senso tutti gli uomini sono eletti perché Dio chiama ogni anima ad andare a Lui, ma pochi sono coloro che diventano eletti, perché pochi sono coloro che accettano l'invito di Dio. Chi accetta l'invito di Dio di andare a Cristo riceve in seguito un'altra elezione particolare, ossia di servirlo nel regno di Dio. Alcuni saranno apostoli, altri saranno insegnanti delle Scritture, altri ancora saranno evangelisti, altri avranno il dono di esortare o di dare, con semplicità. Benché diversi nell'espressione di quell'unico spirito che ricevono, ogni credente singolarmente si sente chiamato e con riconoscenza offre a Dio un culto gradito, con riverenza e timore. Eb 12:28. Sentirsi chiamato per un compito speciale non è poco, perché questa presa di coscienza impedisce il credente di vivere un'esistenza vuota e noiosa, impedisce di essere assaliti dallo sconforto così comune negli uomini, e anche di arrivare all'estremo gesto del suicidio, come purtroppo avviene ogni giorno. Essere coscienti di essere stati scelti da Dio è un'esperienza che produce una immensa riconoscenza e che spinge il credente a formulare la preghiera che ho sentito più volte da una meravigliosa donna uscita fuori da un passato burrascoso: grazie Signore, per avermi dato una seconda possibilità. Che bello! E poi si cerca di dare al prossimo prosperità e... salute, certo. Prosperità e salute ci vogliono, ma a cosa servono se poi nel cuore non vi è riconoscenza verso Dio e verso gli uomini? A cosa serve il benessere se non si è coscienti di essere stati eletti da Dio? Solo colui che è cosciente di essere stato scelto da Dio per svolgere un compito, per lui può realizzare che nulla gli manca. Vi sono tante espressioni per esprimere che nulla manca, ma forse nessuna viene eguagliata da quella detta da Davide nel Salmo 23, la mia coppa trabocca. Sembra un'espressione esagerata in un mondo e in una società dove nulla soddisfa, ma obiettivamente parlando occorre riconoscere che chi serve Cristo ed ha un futuro felice, chi realizza che Cristo è il proprio pastore, chi possiede una vita appagante in un continuo riposo, chi ha una direzione nel cammino di vita, chi possiede la pace e un continuo rinnovamento, chi si avvale del consiglio di Cristo, chi realizza le giuste difficoltà e possiede la certezza e il coraggio, chi è cosciente di possedere costantemente la presenza di Cristo, chi è consolato, chi ha una testimonianza al mondo ed è cosciente di essere, chi serve Cristo e dà tutte queste benedizioni non può che dire di avere un bicchiere o una coppa tanto piena da non poterla contenere. E è vero che ci vuole del tempo prima di giungere a realizzare una vita così apparente e traboccante, e che spesso succede solo dopo essere stati disgustati del mondo e della vita. Ma quando Cristo Gesù diventa veramente l'unica persona per la quale viviamo, e il suo regno, più importante dei nostri affetti e beni terreni, allora, e solo allora, si attua di avere una coppa, cioè una vita, che trabocca di benedizioni. Se questo non è vero, allora gli apostoli e coloro che hanno seguito Cristo sono stati i più grandi impostori della storia, perché del continuo hanno parlato di una vita più che appagante. Ne è un esempio l'apostolo Pietro parlando di Dio. La sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di chi ci ha chiamati. 2 Pt 1:3. E, sempre saggio non essere estremisti, ma quando Pietro disse di avere tutte le cose che appartengono alla vita e all'amore per avere conosciuto Cristo Gesù, o era un esaltato, oppure effettivamente lui e tutti come lui realizzavano che la coppa della loro vita traboccava. L'errore di una società che vive nel benessere non è vivere nel benessere, ma nel non occuparsi della propria anima. Incontro spesso nel mio paese un uomo che sembra uno straccione che vive raccogliendo materiale di scarto. Ed ogni volta gli dico con tono deciso, ricordati, l'unico vero tesoro è Cristo Gesù. Quando morirai lascerai tutto quello che raccogli, se invece poni fede in Cristo avrai un tesoro in cielo che nessuno può toglierti. Mi guarda sorpreso e incredulo, e intanto continua per la sua strada verso la perdizione. Come lui, gli uomini raccolgono per non aver nulla, mentre a chi segue Cristo nulla gli manca. Cosa può succedere a chi serve Cristo ed ha un futuro felice, a chi realizza che Cristo è il proprio pastore, a chi possiede una vita appagante in un continuo riposo, a chi ha una direzione nel cammino della sua vita, a chi possiede la pace e un continuo rinnovamento, a chi si avvale del consiglio di Cristo, a chi realizza le giuste difficoltà e possiede la certezza e il coraggio, a chi è cosciente di possedere costantemente la presenza di Cristo, a chi realizza di essere consolato, che è una testimonianza al mondo, è cosciente di essere stato scelto da Dio e ha tutto in abbondanza? La risposta è una sola, quella che ha detto il re Davide: per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Questa è la conclusione più ovvia, e qualsiasi cristiano testimonia dell'amore di Dio. Occorre però fare una precisazione. Quando si parla di beni e di benignità, essi non sono riferiti a cose terrene, meno, anche se chi ha fede in Dio realizza che nulla gli manca su questa terra, meno, ma piuttosto si tratta di quei beni che non si vedono. Gli scettici di fronte ad un discorso del genere sorridono maliziosi, ma se fossero obiettivi non potrebbero negare che le cose più importanti della vita non si vedono. Chi ha mai visto l'amicizia, chi ha mai visto la simpatia, la stima o l'onore? Si potrebbe rispondere che l'amicizia, la simpatia, la stima e l'onore si vedono dai loro risultati, e ciò è vero, ma se questo è il metro di valutazione per le cose terrene, perché non applicarle anche a quelle celesti? Il cuore sereno e grato di un cristiano impegnato nell'opera di Dio non si vede nelle circostanze avverse. La gioia di sapere di essere stati perdonati da Dio una volta per sempre e di possedere la certezza di andare alla presenza di Cristo non si ode da chi predica il vero Evangelo. Coloro che disprezzano i beni di questa vita e usano tempo e denaro perché l'Evangelo venga predicato in tutto il mondo, non sono forse realtà intorno a noi? Non sono forse questi beni rari posseduti solo da alcuni, e cioè da coloro che hanno fatto una esperienza personale e radicale con Cristo? Inoltre, il termine benignità ha a che fare con la benevolenza, e chi di più di un cristiano è cosciente di essere oggetto delle attenzioni amorose di Dio? Mentre tutti si lamentano di tutto e di più, il cristiano ogni giorno rende un culto a Dio perché è cosciente di essere stato l'oggetto del suo amore e vede ogni giorno come Dio abbia cura di lui. Non è forse questo un bene inestimabile? Chi ha di più di un cristiano al quale nulla gli manca? Un proverbio dice: chi è sazio disprezza il favo di miele, PR 27.7, e chi di più di un cristiano che serve Cristo è sazio al punto di disprezzare ogni altro piacere illecito e illusorio? Chi serve Cristo e realizza che è il suo pastore, ha un futuro felice, possiede una vita appagante, in un continuo riposo, ha una direzione nel cammino della sua vita, possiede la pace e un continuo rinnovamento, si avvale del consiglio di Cristo, realizza le giuste difficoltà e possiede la certezza e il coraggio, è cosciente di possedere costantemente la presenza di Cristo, trova consolazione, è una testimonianza al mondo, è cosciente di essere stato scelto e amato da Dio e da tutti in abbondanza. E questo non solo per un periodo, ma come ha detto il re Davide, tutti i giorni della mia. Mancare di nulla in tutti i giorni della vita è un'esperienza difficile da raccontare e incredibile da credere. Eppure il cristianesimo non è nulla di meno, diversamente, non è più cristianesimo. Infatti, nella parabola del seminatore, coloro che non riescono a ritenere la parola di Dio nel cuore sono coloro che non la comprendono, coloro che perdono la gioia sono quelli che non hanno maturato delle convinzioni, e quelli che non producono frutto sono coloro che sono intrappolati dalle attività della vita, mentre chi serve Cristo per tutti i giorni della sua vita ha del continuo la parola di Dio nel cuore. La gioia è permanente perché la parola di Dio ha prodotto in lui delle sane convinzioni e produce sempre più dei buoni risultati. La vera vita cristiana non è un fuoco di paglia, non è un entusiasmo passeggero, ma è un rapporto continuo di tutti i giorni con il Re dei Re, il Signore dei Signori, cioè Gesù Cristo. Se un credente non mancasse di nulla per un solo giorno, sarebbe una delle esperienze più tristi, perché in seguito continuerebbe a soffrire per il ricordo di tanta abbondanza, e Dio non vuole certamente questo per i suoi figli. Essere consapevoli che non passa giorno che non sia benedetto va oltre ogni fantasia umana, e chi possiede un rapporto continuo con la persona di Gesù si alza con la lode nel cuore. Vive con uno spirito di gratitudine, va a letto con tanta riconoscenza e dorme di quel riposo che possono godere solo i santi. E questo non solo in certi giorni felici, ma tutti i giorni della sua vita. Difficile far comprendere questa verità agli increduli. Com'è difficile far comprendere ad un pesce com'è bello respirare l'aria pura, ma nulla toglie che chi serve Cristo realizzi di mancare di nulla. Il re Davide termina la sua espressione di completo appagamento con delle parole che ogni figlio di Dio ha fatte sue. E io abiterò nella casa dell'Eterno. Il vuoto assoluto non esiste, come del resto non possiamo nemmeno immaginarlo, perciò dopo la morte la nostra esistenza viene catapultata in un'altra dimensione che Gesù ha definito beatitudine eterna o condanna eterna. La beatitudine e la condanna eterna non sono concetti astratti e neppure uno stato della mente come alcuni pensano, ma sono luoghi nei quali i defunti andranno, poiché nessuno di noi è stato nell'aldilà per dei giorni ed è tornato. Per forza di cose occorre fidarsi di quell'unica persona che chi è stata, e questa persona è Gesù Cristo, il quale è morto e risorto. È vero che ha parlato della condanna eterna, ma forse del luogo dei salvati ha detto qualcosa di più, e cioè che i salvati abiteranno in un luogo costituito da case e da stanze, e è sempre opportuno prendere in considerazione questo ragionamento. Prima di tutto perché il re Davide ha detto che avrebbe abitato nella casa dell'Eterno, poi perché Gesù ha parlato di una casa nel futuro, intendendo con questo che l'esistenza celeste è un mondo simile al nostro. Forse per alcuni credenti questo è l'aspetto più difficile da accettare, ma personalmente mi è molto difficile credere che le centinaia di affermazioni particolareggiate dell'esistenza futura siano descrizioni puramente simboliche e senza nessun elemento reale. L'affermazione di Gesù, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Non era puramente simbolica e priva di significato, anche perché i discepoli sapevano distinguere una parabola volta ad esprimere tramite le parole dei concetti morali con un contenuto reale. Tanto è vero che l'autore della lettera agli ebrei, parlando del patriarca Abramo, scrisse: «Per fede, Abramo dimorò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio». Ebrei 11.9-10. Parlando poi della fede dei credenti morti prima di Cristo, l'autore della lettera agli ebrei rimarca: «Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città». Ebrei 9.1-4-16. Vi è dunque una città che aspetta i figli di Dio, una città che Dio sta preparando, e se questo non viene preso alla lettera, la parola di Dio non ha più nulla da dirci. A maggior conferma della necessità di credere che tutto questo sia da considerarsi letterale, la città e il luogo dei quali hanno parlato Gesù e gli apostoli sono nuovamente descritti anche nella lettera dell'Apocalisse. Infatti, l'ultimo libro della Bibbia termina con queste parole: «E se alcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita, dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro». Atto 22.19. La minaccia di Dio per coloro che tolgono le parole è molto severa. E togliere le parole non significa solo eliminarle materialmente dalla Bibbia. Ma questo termine si può concretizzare anche nel privarle del loro significato. E che dire quando leggiamo, sempre nel libro dell'Apocalisse, che vi è un fiume puro dell'acqua della vita, delle piante e dei frutti che ritroviamo anche nel primo libro della Genesi? Tutto è simbolico. Se è tale, cioè senza nessun senso o contenuto reale, allora anche parlare del cielo non ha senso. Anche la promessa di vedere la faccia di Cristo non ha un contenuto reale. Apocalisse 22.4. Anche le dottrine della salvezza e della perdizione non hanno nessun significato o riferimento alla realtà. E se così è, allora mangiamo e beviamo perché tanto moriremo. Non vi è miserabile peggiore di chi professa di credere in Cristo, ma non vede le sue promesse come realtà. Il cielo dunque non è un luogo piatto, monotono, incolore, ma è un luogo dove, oltre ad entrare solo dei nati di nuovo, oltre ad avere una completa gioia, oltre a godere un completo riposo, oltre a svolgere un appagante servizio per Dio, oltre ad avere una conoscenza che soddisferà, oltre ad adorare e ricevere la ricompensa, si vivrà nella città di Dio e, come ha detto il re Davide, si abiterà nella casa dell'Eterno. Certo, proprio perché l'esistenza futura sarà molto simile alla vita attuale, anche perché la vita attuale ad essere l'ombra di quella reale futura, meno non saremo tutti uguali e vi saranno ancora maschio e femmina, non brilleremo tutti nella stessa maniera, perché alcuni brilleranno di più per aver condotto altri a Cristo. Non avremo tutti lo stesso premio, perché ci sarà la corona della giustizia, la corona della vita, quella dell'onore e quella della gloria. Non serviremo Dio tutti nello stesso modo. Non tutti occuperemo lo stesso posto, perché alcuni si siederanno accanto al trono di Cristo. E tutto sarà proporzionato all'amore che avremo avuto per il Salvatore. Cosa può mancare a chi serve Cristo su questa terra? Nulla, ma proprio nulla. E il re Davide lo aveva capito. Lo abbiamo anche noi capito in questo modo. Il re Davide non disse solo che avrebbe abitato nelle case dell'Eterno, perché sarebbe una magra consolazione abitare in un bellissimo posto e poi doversene andare. Davide aggiunse una verità che fa saltare di gioia chi ha posto fede in Cristo e lo serve. Io abiterò nella casa dell'Eterno per la lunghezza dei miei giorni. Alcuni hanno ravvisato che Davide dicesse che avrebbe abitato nella casa di Dio per lunghi giorni, ma le parole di Davide esprimono la fiducia che avrebbe abitato nella casa dell'Eterno finché egli esisteva, il che vuol dire sempre per l'eternità. Così l'epilogo di un uomo che aveva espresso un'esistenza nella quale nulla mancava è che dopo aver servito Cristo e aver realizzato che egli è il suo pastore, dopo aver detto di avere un futuro felice, dopo aver testimoniato di possedere una vita appagante in un continuo riposo, dopo aver avuto una direzione nel cammino di vita, dopo aver posseduto la pace e un continuo rinnovamento, dopo essersi avvalso del consiglio di Cristo, dopo aver realizzato le giuste difficoltà e di possedere la certezza e il coraggio, dopo essere cosciente di possedere costantemente la presenza di Cristo e la sua consolazione, dopo essere stato una testimonianza al mondo, dopo essere cosciente di essere stato scelto e amato da Dio, dopo aver la certezza che avrebbe abitato nella casa di Dio, ora esprime una verità che solo il cristianesimo può dare, ha la certezza della vita eterna. Solo chi non è un cristiano nominale meno, cioè coloro che portano il nome di cristiano, ma nei quali di cristiano non vi è proprio nulla meno, solo chi è cristiano di fatto e di parole può avere la certezza ora di possedere la vita eterna e di realizzarla pienamente dopo la morte. L'apostolo Giovanni scrisse a coloro che avevano posto fede in Cristo Gesù: ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. 1 GV 5.13. Da notare che le persone alle quali scriveva Giovanni avevano creduto in Cristo Gesù, ma non sapevano di possedere la vita eterna, e questo è meraviglioso perché le promesse di Dio rimangono valide anche per gli ignoranti. Infatti, tutti coloro che fanno di Cristo l'unica persona da pregare, adorare e servire, diventano per fede e senza alcun merito figli di Dio, anche se non lo sanno. Nello stesso modo, coloro che servono Cristo e realizzano che è il loro pastore, hanno tutto e nulla gli manca. E dato che alcuni non sono coscienti di possedere un'infinita ricchezza, meno, per questo appartengono a quella categoria di ricchi che vivono da poveri, PR 13.7, meno, ho pensato opportuno di attingere alla fonte inesauribile dei beni di Dio. Sta a noi riceverli affinché possiamo dire: nulla mi manca. Giugno 2007, Ellero.